e definito la violenza contro le donne un'epidemia. Esatto, la violenza contro le donne è un fenomeno che è assolutamente a livello preoccupante. Amnesty International ha lanciato una campagna mondiale nel marzo scorso che durerà 2 anni. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Amnesty ha pubblicato un rapporto che riguarda in maniera specifica il collegamento fra la violenza sulle donne e la diffusione del virus dell'AIDS. In particolare è da considerare questi due fenomeni strettamente collegati. Una elevata percentuale di contrazione del virus da parte delle donne è infatti dovuta a fenomeni di violenza sessuale che subiscono. Pensiamo ad esempio che numerosi studi sulla materia hanno portato alla luce che il primo rapporto sessuale di una ragazza è spesso obbligato. Inoltre, una donna su 5 è vittima di uno stupro, di un tentato stupro nel corso della sua vita. Pratiche quali le mutilazioni genitali, matrimoni precoci di ragazze giovanissime se non bambine o appunto il cosiddetto passaggio di proprietà delle vedove ad altri parenti quando il marito muore costituiscono degli ulteriori fattori di rischio per le donne di contrarre il virus. La violenza nei confronti delle donne nell'ambito di conflitti armati, che siano appunto delle guerre o dei conflitti interni che vedono appunto da una parte forze governative e gruppi armati di opposizione, in questo contesto le donne non sono solo vittime degli attacchi indiscriminati nei confronti della popolazione, ma sono vittime di uccisioni, mutilazioni e stupri proprio come arma di guerra. Non sono in pratica delle intemperanze o degli atti fuori controllo da parte di alcuni militari, si tratta di atti deliberati volti appunto a intimidire la comunità di appartenenza delle donne, far sentire impotente nel proteggere le donne e ha un effetto di un trauma a lungo termine sull'intera comunità che subisce questa pratica, che a volte assume proprio un aspetto di stupri di massa. Pensiamo ad esempio nel genocidio in Ruanda, di cui è ricorso il 10° anniversario quest'anno. Nei 100 giorni in cui si è consumato il genocidio sono stimati circa 250.000-500.000 stupri avvenuti appunto solo in questo breve periodo. Questo quadro raccapricciante che ci hai descritto sembra lontano da noi, c'è invece qualcosa che arriva anche a noi di tutto quello che succede in questi posti dove la violenza contro le donne è praticamente sistematica e quotidiana. Beh, la violenza sulle donne assume vari aspetti, varie caratteristiche, spesso i fattori si sovrappongono, abbiamo appunto non solo una violenza nell'ambito di conflitti armati, ma anche fenomeni appunto di violenza nella comunità, violenza domestica ad opera dei familiari. Uno appunto dei punti più importanti della campagna di Amnesty International è proprio denunciare come il fenomeno della violenza sulle donne sia un fenomeno globale, presente in tutti i paesi, anche nelle diciamo società tipo quelle appunto occidentali che magari si ritengono più immuni da questo tipo di fenomeno, ebbene non soltanto appunto paesi asiatici, africani o dell'America Latina, ma anche qui in Europa o negli Stati Uniti la violenza domestica in particolare assume delle dimensioni molto elevate e preoccupanti. Pensiamo ad esempio nel Regno Unito i servizi di soccorso registrano una chiamata al minuto di donne che chiedono aiuto per violenza domestica. In Belgio una ricerca condotta qualche anno fa ha portato alla luce che oltre il 50% delle donne ha subito violenza domestica. Inoltre nei nostri paesi esiste un fenomeno molto forte di tratta di donne a scopo di prostituzione. Nell'Europa occidentale, ad esempio, ci sono oltre 500.000 donne che sono nel giro della tratta e questo si accompagna a delle gravissime violazioni dei diritti umani, in quanto si tratta appunto di presa praticamente in schiavitù della donna, che viene costretta alla prostituzione e tortura nei confronti della donna stessa finché non riesce appunto a liberarsi e a trovare un aiuto esterno. Cosa si può fare per cercare di risolvere questi problemi? Ma si può fare molto, è da sottolineare che nonostante questo contesto che potrebbe chiaramente scoraggiare, sono molte, moltissime le donne che si battono per i diritti umani, attiviste proprio sotto forma appunto anche di organizzazioni, associazioni per la difesa delle donne. Queste donne con molto coraggio nei vari paesi si battono per vedere finalmente riconosciuti non solo nei trattati internazionali ma anche nella pratica i diritti delle donne.